Abbiamo adesso due comunicazioni. Prego il professor Giorgio De Rossi di prendere posto al tavolo della presidenza e anche il professor Silvano Buscaroli di approssimarsi, se è in sala, di può venire al tavolo. Grazie. Spero di farci. Sì, ma tu hai anche... Non conosco il titolo, quindi... Ecco, la parola al professor Giorgio De Rossi, ordinario di teoretica all'Università di Trieste e autore di un bel saggio sul tema del silenzio pubblicato in Archivio di Filosofia sulla fine degli anni 60, se la stanchezza, o inizio degli anni 70, in cui prendeva in esame un libro di un fenomenologo francese, Piaget, dall'estetica alla metafisica, che dedicava gran parte dello spazio alla tematica del silenzio. Quel saggio è uno dei pochi esistenti in Italia di natura filosofica sul tema del silenzio. Dopo di allora ha fatto silenzio sul silenzio. Comunque ringrazio l'amico Valdini per questo ricordo, io stesso veramente l'avevo un po' rimosso e non avevo così ben presente questo testo. E questa sera comunque è mia intenzione, nel brevissimo intervento che farò, di proporvi qualche spunto di riflessione su alcuni aspetti della problematica che è amplissima, importantissima e quindi non andrebbe toccata in maniera così succinta, dei rapporti fra nichilismo, soprattutto nella forma del nichilismo radicale, per esempio di un Weisheidel, e del fideismo. In particolare vorrei tematizzare i concetti che si trovano appunto in questo autore, anche nel suo dialogo con molto interessante col teologo Golditz, pubblicato già alcuni anni fa in Germania, prima ovviamente, e poi tradotto in italiano con una bella introduzione di Cunico, mi sembra, che riguarda essenzialmente il rapporto tra l'esperienza radicale e il sapere, il concetto di sapere, nel tentativo da parte mia di evidenziare la possibilità di un'utile inserzione in questo dibattito, in questa problematica, di un approccio di carattere epistemologico e anche filosofico-linguistico. Quindi c'è troppa carne al fuoco, mi rendo conto, in 20 minuti non si può fare tutto questo, ma appunto ho premesso che si tratta più che altro di una proposta di spunti di riflessione. Quindi scusate la rapsodicità del mio discorso, che leggerò nel tentativo, perché mi pare di aver calcolato che dovevi farcela leggendo in una ventina di minuti o 25 minuti, per non abusare del tempo che ho a disposizione. Oh, fra l'altro mi riallaccio un momentino, prolungo brevemente questa premessa, un po' anche alla tematica sviluppata nel discorso questa mattina dal professor Antiseri, il quale non ha toccato veramente la questione del rapporto tra fideismo e nichilismo, anche se credo e so che sia una problematica che gli è ben presente. Non poteva toccare tutto oggi, anzi ha toccato molto. Lo ha toccato certamente con un discorso, se mi è consentito dire, non dolce, per evocare la locuzione biblica prima, a cui ha prima accennato il professor Stiglmaier. Però in effetti certe volte il discorso dolce non si può fare, bisogna fare i discorsi duri laddove la realtà è dura, la realtà della crisi è dura, no? Non credo che sia stato Dario Antiseri a inventare la crisi del pensiero scientifico, la crisi della metafisica, diciamolo pure, in varie forme. In generale la crisi del pensiero contemporaneo non l'ha inventata lui, e perciò tutto sommato è bene che ci sia qualcuno che mette il dito sulla piaga, cosa che pochi hanno il coraggio di fare, compreso il sottoscritto forse. E perciò quindi vorrei anche idealmente riallacciarmi a questo discorso avviato dal professor Antiseri. Ora, la forza e l'indispensabilità della fede appare certamente sempre più legittimata nel mondo contemporaneo dal continuo manifestarsi dei limiti della ragione, o, se si preferisce, dalla debolezza del pensiero come totalizzante, come oggi si preferisce dire, sia sul versante filosofico-metafisico sia su quello epistemologico-scientifico. Ciò è reso poi persino drammatico dall'opera di reciproca demolizione portata accanitamente avanti da molti esponenti dei due suddetti versanti, quasi che l'unica possibilità di salvezza degli uni risiedesse nella resa senza condizione degli altri e viceversa. Si è così sempre più accentuata quella crisi della ragione in cui ci troviamo coinvolti e che è fondamentalmente determinata, come è ben noto, dall'inesorabile e progressivo riconoscimento che la verità costituisce un concetto limite, un limite al quale ci si può indefinitamente avvicinare, ma che, parrebbe, non si può mai raggiungere. Il titolo dell'autobiografia intellettuale di Karl Popper può esemplarmente fungere a tal riguardo da motto: la ricerca, aggiungo io tra parentesi, della verità non ha fine. Gli esiti variamente e più o meno dichiaratamente nichilistici e scettici determinati da tale situazione sono a loro volta ben noti. Orbene, il problema che vorrei, non dico appunto affrontare, ma solo mettere in qualche modo a fuoco in questo breve intervento, è il seguente. L'orientamento nichilistico, che in varie forme sembra volersi attestare in maniera sempre più decisa e massiccia nell'ambito del pensiero contemporaneo, può essere, almeno in qualcuna delle sue forme, funzionale a un rafforzamento della fede, quale via maestra alla verità, oppure può costituire, al contrario, un ostacolo a ciò? Allorché la ragione si rivela impotente, sembra diventare quasi obbligato il ricorso, o il tentato ricorso, alla fede. Ma, naturalmente, un ricorso alla fede così motivato non le rende certo giustizia, giacché si basa in definitiva sul presupposto che la fede non sia che un surrogato della ragione, o almeno un sentiero impervio, e che potrebbe in ogni momento, per dirla con Heidegger, interrompersi. Un sentiero da percorrere solo dopo che la via maestra della ragione si sia dimostrata impercorribile. In effetti, se la fede vuol veramente subentrare alla ragione non come un suo surrogato, bensì come autentica via alla verità, deve esibire sue proprie credenziali, atte a garantirla quale valida alternativa alla ragione. La soluzione di questo problema, tanto antico quanto fondamentale nella storia del pensiero occidentale, ha incontrato e incontra difficoltà altrettanto antiche e fondamentali, che, in rapporto al tema di questo colloquio, e sia pure con eccessiva schematizzazione, si possono così sintetizzare. Quando la ragione tace, parla la fede. Ma la fede non è essenzialmente silenzio, nella misura in cui è essenzialmente ascolto di una parola di rivelazione. Come può allora la fede legittimarsi, cioè portare argomenti a proprio favore, se non traducendosi in logos, in teologia? Se non cioè trasformandosi da esperienza vissuta in discorso astratto. Ora, proprio su questo punto, il nichilismo contemporaneo, particolarmente in talune tendenze più radicali, sembra voler negare l'inevitabilità del trapasso dall'esperienza vissuta a un discorso che necessariamente ne sarebbe la deformazione, l'astrazione. Penso, per esempio, a una posizione come quella dell'interrogare radicale di Wilhelm Pfeil-Schedel, quale emerge in modo particolarmente significativo nella discussione, dialogo, con il teologo Helmut Goldwitzer, riportata nel testo, un testo pubblicato alcuni anni fa con il titolo Denken und Glauben e tradotto poi in italiano, come ho già detto prima. Il punto fondamentale nella posizione di Weisschedel consiste nel rivendicare la primarietà e l'universalità dell'esperienza esistenziale radicale, quella cioè della mancanza di senso dell'esistenza, del fatto che il mondo, e soprattutto l'uomo, sono scombinati, come gli dice, non sono in ordine. Sembrerebbe che l'unico atteggiamento possibile in una simile condizione di pressoché totale mancanza di senso sia quello di sottrarvisi rifugiandosi in un mistico silenzio, ossia nella fede intesa come ascolto di una parola che trascende e toglie quella mancanza di senso. Ma tale soluzione viene decisamente rifiutata da Weisschedel, giacché per lui l'esperienza della fede non è così originaria come quella dell'universale mancanza di senso. E non essendo originaria, non è neppure legittimabile, ossia, la fede non è degna di fede, perché non si radica nell'esperienza più autentica, l'unica veramente universale, imprescindibile e intrascendibile, che è costituita dalla radicale mancanza di senso che essa stessa ci mostra. Non è mia intenzione esporre esaurientemente il punto di vista di Weisscheder, in particolare poi l'aspetto costruttivo, cioè il tentativo di costruzione di una teologia filosofica che è molto interessante peraltro, quanto piuttosto mettere a fuoco quello che pare essere il criterio fondamentale su cui egli fonda la sua posizione, il criterio cioè dell'immediatezza, tema non nuovo nella nostra filosofia occidentale. Egli sottolinea come la fede cristiana, in particolare, si fondi su testimonianze storiche, le quali tutto il più possono assicurare la probabilità dei fatti storici da esse testimoniati, ma non quell'assoluta certezza che è propria della fede. L'efficacia salvifica, poi, dei fatti testimoniati risulterebbe esclusivamente da asserzioni dei testimoni stessi, le quali non rispecchierebbero dei fatti, bensì un'interpretazione dei fatti medesimi, già condizionata dalla fede nella loro efficacia salvifica. Senza entrare nel merito di queste considerazioni, bisogna chiedersi se comunque esse non siano riferibili alla stessa esperienza radicale o alla radicalità dell'esperienza di cui parla appunto Weisscheder. Ci dobbiamo chiedere cioè, secondo me, l'esperienza radicale, qualunque essa sia, è veramente esperienza pura, esperienza compiuta, per dir così, in un silenzio assoluto, non incrinato da nessuna interpretazione, da nessuna parola, sia pure di rivelazione. In termini kantiani, è possibile un'esperienza pura, assolutamente pura di questo genere, quindi radicale in quanto pura? Per poter esperire il non senso, non bisogna forse già sapere, ecco che si inserisce quindi il concetto di sapere, in qualche modo che cosa sia il non senso e quindi il senso. È precisamente l'inserzione del sapere, di un sapere, a incrinare la cristallina purezza di una presunta esperienza allo stato puro. Da quando l'uomo ha mangiato i frutti dell'albero della scienza, o anzi già da quando ha mangiato i frutti dell'albero della vita, non può più sottrarsi alla maledizione del sapere, sia pure del sapere di non sapere. Né sembra capace di dissipare il miraggio, per usare la terminologia dello stesso Weisscheder, del, cito, darsi della cosa stessa nella sua realtà. Egli, Weisscheder, fa l'esempio dell'asserzione, fuori è buio, sostenendo che una tale asserzione è vera, cito, se fuori è effettivamente, realmente buio. Ora, ciò può essere stabilito solo mediante l'osservazione, cito, andando a vedere se fuori è buio. Io guardo quindi fuori dalla finestra e mi convinco con i miei occhi che fuori è effettivamente buio. Fin qui parrebbe che l'approccio di Weisscheder sia del tutto congruente con quello di tipo addirittura neopositivistico, che fonda, come noto, la verità delle asserzioni sul metodo di verifica del contenuto delle asserzioni stesse. Ma mentre i neopositivisti riconoscevano e anzi sottolineavano il carattere prettamente empirico di tale verifica, Weisscheder interpreta invece quest'ultimo in termini heideggeriani e infatti soggiunge che nel guardar fuori, cito, la cosa stessa mi si palesa nella sua realtà, il che conduce a un secondo modo, dice sempre lui, della verità, un secondo modo della verità, diverso dalla verità dell'asserzione. Verità significa ora essere manifesto, offenbarkeit, della cosa stessa nella sua realtà, ovvero, come si può dire riallacciandosi a Heidegger, verità significa non essere nascosto, unverborgenheit. Fine della citazione. In base a ciò Weisscheder giunge alla conclusione che la verità come corrispondenza adeguata fra asserzione e cosa si fonda a sua volta sulla verità come essere manifesto della cosa stessa nella sua realtà, giacché solo così, solo se la cosa stessa è manifesta, si può fare su di essa un'asserzione vera. Il che viene a significare infine questo, che per legittimare la verità dell'asserzione bisogna per così dire, questo è un punto interessante di Weisscheder, aggirare l'asserzione stessa. La sua legittimazione può venire solo da un darsi della cosa più originario e immediato che non quello che si compie nell'asserzione. In definitiva, cito ancora, la legittimazione della verità di un'asserzione presuppone un darsi della cosa asserita al di fuori dell'asserzione stessa. Da questo punto di vista, la verità autentica allora, è chiaro, non può essere attinta attraverso il linguaggio, l'asserzione, bensì piuttosto mettendo tra parentesi il linguaggio, da cui tuttavia si parte, o, come dice Weisscheder, aggirandolo, in maniera da consentire il silenzioso manifestarsi o mostrarsi della cosa stessa. Orbene, proprio questo principio fondamentale, che la verità autentica, in quanto coincidente con la realtà stessa, può solo manifestarsi, cioè può cioè nella sua essenza essere osservata e non esser detta, ovvero può essere detta solo in qualche modo obnubilandola, proprio un tale principio che viene posto a base dell'esperienza umana radicale e perciò considerata primaria rispetto a quella della fede, non può che essere esso stesso oggetto di fede, a mio avviso. Ciò risulta chiarissimo già nell'esempio ora riportato e proposto dallo stesso Vaishede. Per verificare se fuori c'è buio, ossia per stabilire la verità della proposizione fuori c'è buio, bisogna verificare ciò e quindi bisogna mettersi in condizione di osservare il fenomeno. Si può certo dire che il buio si manifesta all'osservatore, ma è chiaro che esso non potrebbe affatto manifestarsi se non ci fosse un osservatore. Per cui esso conoscitivamente esiste nella misura in cui è osservato, cioè è un fenomeno, un qualche cosa, vecchia parola della nostra gnoseologia, un qualcosa che appare a qualcuno. Risale a Kant, appunto, come ben noto, il merito di aver messo correttamente a fuoco questo problema, anche se da tale messa a fuoco è conseguita la contrapposizione fenomeno-noumeno, fomita a sua volta di un'ulteriore complessa problematica. L'epistemologia contemporanea ha dato un notevole contributo, almeno alla chiarificazione dei termini essenziali di tale questione, sottolineando anzitutto il carattere ipotetico delle proposizioni impiegate per riferirsi alla realtà. Anche se nell'uso corrente sono usate come asserzioni, le proposizioni che intendono riferirsi al reale rimangono meramente ipotetiche finché la loro adeguatezza reale stesso non venga dimostrata. E tale dimostrazione consiste essenzialmente in un'osservazione, la quale, se a sua volta consiste in una percezione sensibile, come nel caso del buio, non può che riferirsi a un fenomeno e non alla realtà in se stessa, o al noumeno, per dirla con Kant. Un reale che manifesti se stesso senza mostrarsi empiricamente non può essere dunque se non oggetto di fede. Concludo io. Naturalmente il discorso cambia se il reale che si manifesta è un reale meta-empirico, se è l'essere, con la E maiuscola, non riducibile agli enti empirici e perciò non accessibile a un'osservazione meramente empirica. Ma allora cambia anche necessariamente il modo del manifestarsi, non più un apparire tanto più genuino quanto più silente, a un osservatore, bensì un rivelarsi a un interprete attraverso segni che, per quanto ridotti heideggerianamente a cenni, tuttavia per poter essere rivelativi devono essere capiti, ossia decodificati o interpretati. Di conseguenza il manifestarsi dell'essere metaempirico, non potendo avere attuazione in un silente mostrarsi, deve consistere in un dirsi, ossia in un manifestarsi che, essendo segnico, è propriamente un rivelarsi. Da questa sommaria messa a punto risulta, a mio parere, la problematicità insita nell'identificazione del fondamento ultimo o primo, fondamento anche perciò dell'esperienza di fede, considerata secondaria, come dicevamo prima, come un'esperienza a sua volta ultima o prima, precisamente con l'esperienza della totale mancanza di senso. La primarietà assoluta di tale esperienza viene giustificata in base alla sua universalità, al fatto che è condivisa da ogni uomo che si trovi a vivere nella presente situazione epocale, mentre un simile carattere di universalità e radicalità non potrebbe essere ravvisato in altre esperienze, sia pur cruciali, come quella della fede religiosa. Su quali basi però tale carattere di universalità e radicalità viene attribuito in esclusiva all'esperienza della totale mancanza di senso? Ebbene, se si cerca risposta a questa domanda, si vede che il criterio a cui si fa ricorso per stabilire l'universalità e perciò la primarietà dell'esperienza radicale è quello dell'immediatezza. La mancanza di senso dell'esistenza si manifesta immediatamente, senza mediazioni o interposizioni di sorta, il che non può dirsi della fede religiosa, che essendo un'esperienza ancorata a una rivelazione, è vincolata altresì alle testimonianze mediante, sottolineato mediante, cui la rivelazione stessa si manifesta. Ora, un'esperienza immediata del tipo e nel senso indicati coincide con quello che propriamente si chiama un vissuto, Erlebnis in tedesco, il termine usato molto nella filosofia tedesca. Ed è certo difficile contestare che specialmente nella situazione epocale odierna, o se si preferisce postmoderna, come si usa dire, l'esperienza quotidianamente, spesso dolorosamente vissuta, della mancanza di senso, di cui appunto il discorso del professor Antiser in fondo è stata una testimonianza questa mattina, sia tanto diffusa e onnipervadente da poterla o doverla considerare tanto universale quanto radicale. Ma c'è da chiedersi, un'esperienza pura, assoluta, può in quanto tale essere oltre che vissuta anche saputa? Fra sentire e sapere, a mio avviso, sussiste un divario strutturale che non sempre è tenuto debitamente in conto. Così il teologo Gollwitzer, nella discussione con Weisheder riportata nel volume che ho citato prima, nel fare l'esempio di uno che tocchi per la prima volta incidentalmente una fiamma, rileva che quel tale, avendo sentito dolore, sa, dopo di ciò, immediatamente, aggiungo io, che la fiamma provoca dolore. Su questo punto il teologo è dunque d'accordo col filosofo, sul punto cioè che il sentire può generare immediatamente il sapere. Ma l'esempio in questione non è certo sufficiente a supportare una simile conclusione. Non c'è passaggio diretto dal sentir dolore a contatto con una fiamma al sapere che la fiamma provoca dolore. Il sapere è per definizione il frutto di una generalizzazione e quest'ultima a sua volta il prodotto di meccanismi percettivi, concettuali, sofisticati e diversificati, induzione, elaborazione di teorie più o meno incarnate oppure disincarnate, eccetera, sul cui funzionamento l'epistemologia contemporanea, particolarmente, bisogna riconoscerlo, quella popperiana, ha portato decisivi chiarimenti. Su questo punto, e sia pure in modi e forme diversi, teoria della conoscenza e l'epistemologia pervengono, direi, a conclusioni convergenti, pressoché ormai, scusate il termine, incontrovertibili. In altri termini, un'esperienza, sia pur essa la più radicale, universale, problematica possibile, può essere ragionevolmente fondante solo se sia capace di generare una fede attraverso la precaria, ma indispensabile mediazione di un sapere. Se ora torniamo alla domanda posta all'inizio riguardo al tipo di rapporto che è possibile oggi prefigurare fra il nichilismo, almeno limitatamente a certe sue forme radicali come quella di Weisheder a cui mi sono riferito in questo intervento, e il ruolo assegnabile alla fede o al fideismo, direi che l'esperienza della problematicità radicale dell'uno tende a contrapporsi, subordinandola a sé o escludendola a sé all'esperienza della fede, imperniata sull'ascolto di una parola di rivelazione che deformerebbe la verità per il fatto di dirla invece di mostrarla. Ma è ancora qui infine che la presunzione di radicalità, secondo me, palesa un'incongruenza, e proprio questa volta rispetto al fideismo. Nell'accusare quest'ultimo di appagarsi indebitamente di una parola che pretende, senza esserne legittimata, di dare una risposta definitiva e pacificante all'interrogare radicale in cui consiste l'esistenza umana, Weisheder, per esempio, dimentica che l'interrogare, se non è una mera metafora, e non dovrebbe esserlo in questo tipo di discorso, è anch'esso, e forse soprattutto esso, più direi ancora che un gioco linguistico alla Wittgenstein, un atto linguistico. Un atto linguistico in senso forte, nel senso tematizzato in particolare nell'ambito della filosofia odierna del linguaggio, dalla teoria degli atti linguistici, per cui il parlare, in determinate circostanze cruciali, coincide con l'agire. O sarebbe forse anche meglio dire all'inverso, che l'agire coincide col parlare. Per quanto radicale sia l'esperienza esistenziale, dunque, essa non può costitutivamente sottrarsi al dire, al discorso, alla parola. Essa non può non dirsi, anzi coincide con tale dirsi, sia pure sotto forma di un continuo interrogare. Se questo interrogare non ha senso, allora non è vero interrogare, non è atto linguistico, e perciò non è neppure atto. Come il sapere, anche il senso, un qualche senso, è una maledizione da cui l'uomo non può facilmente liberarsi. Ma se l'interrogare ha un senso, proprio come atto specifico dell'interrogare, allora ha senso anche che esso possa avere una risposta. Anzi, ha senso solo se può avere risposta. Ma è proprio lo specifico atto linguistico della fede, quello di fare domande nel tentativo e nella speranza di ottenere risposte. La speranza della fede fa tutt'uno con la speranza nella fede. Certo, e concludo, mi avvio alla conclusione, una tale conclusione, quindi anche, almeno in parte, una tale speranza, può trovare fondamento solo in un'appropriata filosofia del linguaggio. E non a caso la filosofia del linguaggio costituisce uno dei tratti più tipici ed essenziali che contrassegnano il pensiero contemporaneo. Ma non c'è da stupirsene, è pur vero infatti che, come Wittgenstein ha messo incisivamente in chiaro, la svolta linguistica in filosofia, se presenta indubbiamente forti connotazioni antimetafisiche, ha altresì aperto nuovi ampi varchi al discorso e alla fede religiosi. Un discorso e una fede in cui il silenzio non è la fine, direi, bensì piuttosto la continuazione del discorso. Ringraziamo il professor De Rossi per queste sue riflessioni, perfette, in cui, chiamando in causa l'Antiseri, avrai poi modo di... Ah, è qua, di fronte, quindi non lo era presente sin dall'inizio, sì. Tu non lo vedevi, ma c'era tutto Recchi.